Europa 24. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchese. Iniziata a Parigi la 21esima conferenza sul clima. Abbiamo un obbligo di successo, la posta in gioco troppo importante per potersi accontentare di un accordo al ribasso, ha detto questa mattina il ministro degli esteri francesi e presidente della conferenza Laurent Fabius in apertura dei lavori. Abbiamo bisogno di un accordo significativo e forte qui a Parigi, ha detto invece il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon proprio all'apertura dei lavori. Per il presidente francese François Hollande la lotta al terrorismo e il cambiamento climatico sono le vere due grandi sfide che dobbiamo affrontare, ha detto, perché ai nostri figli dobbiamo lasciare di più che un mondo libero dal terrore, un pianeta preservato dalle catastrofi, un pianeta, ha detto Hollande, sostenibile. L'Italia è il paese dell'Unione Europea che segna record del numero di morti prematuri rispetto alla normale aspettativa di vita per inquinamento dell'aria. La stima arriva dal rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, AEA. Il bel paese nel 2012 ha registrato 84.400 decessi di questo tipo su un totale di 491.000 a livello europeo. La Turchia riceverà 3 miliardi di euro dall'Unione Europea per affrontare l'emergenza profughi. La decisione è stata presa, lo ricordiamo, ieri a Bruxelles, un vertice straordinario fra la Turchia e l'Unione Europea. Con quei soldi la Turchia assisterà i rifugiati e controllerà meglio le frontiere per evitare l'esodo verso l'Europa. Ma quali sono i punti ancora scoperti in questo accordo? Ad accordo fatto tra Europa e Turchia con 3 miliardi di euro sul piatto mancano all'appello alcuni punti rimasti scoperti. È stato un lungo negoziato a 29 per gestire meglio l'arrivo di migliaia di immigrati dal vicino Oriente, ma anche per rilanciare i rapporti tra Bruxelles e Ankara. In cambio dell'aiuto turco, i 28 infatti hanno preso l'impegno di aprire nuovi capitoli negoziali, per i quali occorre l'unanimità dei 28 in vista dell'adesione del paese nell'Unione, che sembrerebbe però molto lontana, non solo perché si chiede al paese il rispetto dei diritti umani secondo valori europei, ma anche perché ci sono questioni ancora aperte. Circa il pagamento di 3 miliardi di euro per migliorare le condizioni di vita dei 2,2 milioni di rifugiati, per i quali la Turchia ha già speso 7 miliardi. Bruxelles vorrebbe dilazionarli in 2 anni, mentre Ankara chiede che sia annuale e gli stati hanno deciso di rinviare a un momento successivo la trattativa su questo punto. Poi c'è il capitolo 17, governance economica e monetaria, che verrà aperto a metà dicembre. Il provvedimento ha già l'ok del 28, ma Ankara chiede anche l'apertura di altri capitoli, quello sulla riforma del sistema giudiziario, dei diritti fondamentali, la sicurezza, l'energia, la politica estera, bloccati da anni dal veto cipriota. Cipro infatti vuole assicurazioni su una futura riunificazione dell'isola, oggi divisa tra ciprioti greci e ciprioti turchi, prima di dare il suo benestare. D'altra parte, per il momento Ankara fa resistenza all'avvio dei capitoli sulla concorrenza. Un gran lavoro per la Commissione europea sui nuovi capitoli del processo di adesione, che prenderà buona parte del 2016 e intanto la Turchia è da anni in sala d'aspetto. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Si apre una settimana di incontri europei che faranno il punto della lotta al terrorismo. A 15 giorni dai drammatici attentati terroristici di Parigi, i governi europei torneranno questa settimana a parlare di lotta al terrorismo e di sicurezza. Domani e mercoledì si incontreranno alla NATO i ministri degli esteri. Giovedì e venerdì ci sarà un Consiglio europeo dei ministri degli interni. Per Gilles de Kerchove, il coordinatore europeo del controterrorismo, sarà l'occasione per rinnovare l'appello alla collaborazione tra le autorità nazionali in un settore nel quale vige ancora la competenza dei singoli Paesi membri. Secondo de Kerchove, sono 5.000 i giovani europei che hanno combattuto o stanno combattendo in Siria. La cifra è elevata e preoccupante se solo una quota del 10% di questi è violenta, pronta a commettere attentati in Europa per conto dell'estremismo islamico. De Kerchove coglierà gli incontri di questa settimana per sottolineare l'importanza di approvare a livello europeo una banca dati dei passeggeri aerei. Da 4 anni Parlamento e Consiglio stanno negoziando su questo punto senza trovare un accordo. Secondo il coordinatore europeo del controterrorismo, i deputati europei devono arrendersi all'idea di trovare un compromesso che rispetti la privacy, ma nel contempo permetta ai servizi di sicurezza di combattere il terrorismo con mezzi efficaci. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Vi saluta qui Daniele Biacchesi, Europa 24 torna ad effetto notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.